strozzato, facci di un bimbo che al mondo è venuto, sangue di un batterista, guerriero del niente, corazze e cartone, e fino al teatro di tua conclusione, che mangia, che soffre, che soffre, che mangia, col muscolo teso, il muto alfabeto, lo spazio di dietro per cose mai dette. Nebbia leggera, riflesso solo.